Buonasera, Radio Città del Capo, Radio Metropolitana, fino a quando si chiamerà insomma ancora così, per il momento insomma 451 frammenti sonori in compagnia di Eliseo Scarpa e di Max Macchia. Caro mio, te la ridi sotto i baffi già? Ma sì, perché dai, tutto sommato questa cosa del metropolitano sta già scemando probabilmente nella nuova struttura radiofonica. Con il rospo insieme a me che voleva salutarvi, sicuramente verrà eliminata questa dicitura, però non siamo ancora sicuri. Sì, infatti, non anticipiamo niente perché sennò poi qualcuno si arrabbia. Non voleva mica fare arrabbiare nessuno. No, assolutamente. Siamo bravi, dai. Vi vogliamo bene, chiaramente ci siete mancati. Sul blog però troverete insomma la trasmissione anche di domenica scorsa, anche se non andate in diretta. Sì, è una trasmissione fantasma, diciamo, esatto. A livello di onde parassitarie. Parassitarie, bravo, sì, tipo sì. Di parassiti si tratta. Sì, insomma, da prendere anche con le dovute cautele, col vecchio, come si chiamava? Quello per ammazzare mosche e zanzare. I parassiti, sai che non me lo ricordo più neanche io. È vero, clamoroso, ecco, era molto pubblicizzato. Non te lo ricordi, infatti, questa sera hai fatto il gioco. Però se ti dicevo, allora ti ricordi uguale. Perché sempre ricapitavamo, no? Ovvero, dove capitiamo questa sera? Capitiamo dalle parti delle citazioni e soprattutto della memoria. In realtà, poi, soprattutto, potremmo anche dire che le citazioni prenderanno buona parte della prima parte, scusate il gioco di parole, di 451 frammenti sonori, dove tratteremo quello che è stato, e magari appunto lo mettiamo al passato prossimo, il postmoderno, quindi l'arte della citazione, del ricomporre e ricombinare materiale anche molto disparati, come gioco divertente, come possibilità nuova per qualcuno, e questo qualcuno infatti ci interessa nella prima parte, proprio nella primissima parte, nel primo segmento dei due progetti che andremo a mettere. Quindi la citazione, quell'arte particolare che si è sviluppata fino ai nostri giorni, fino probabilmente punta massima è stata della postmodernità musicale, l'arte del sampling, quindi tutta la musica campionata degli anni 90, arrivare quasi ai primi anni zero, però in realtà già lì col glitch la faccenda stava cambiando anche decisamente, si stava lavorando sull'errore della macchina. Negli anni zero c'è stato un grosso recupero proprio in termini di memoria, anche critica, rispetto sia all'industrial music, e non è un caso neanche che citi appunto l'industrial per quanto riguarda il neo noise americano, Prurient, Wolf Eyes, eccetera eccetera eccetera, qualche anche spruzzatina questa sera degli americani non più noise ma cosmicheggianti o ambient li metteremo. E poi soprattutto negli ultimi tempi, negli ultimi anni, si sente un grosso percorso quasi a ritroso, quasi alla ricerca non più della citazione, che appunto era un gioco a volte insomma piuttosto così diciamo benevolo, altre volte cattivo e malevolo, decostruzionista, antagonista, come faremo sentire tra pochissimo, però per buona parte insomma molto anche così benevolo, non particolarmente insomma cattivo rispetto alle istituzioni date, anzi spesso giocando proprio anche con il potere, ecco, appunto delle istituzioni musicali e quant'altro. Se musiche insomma citazioniste postmoderne si sono nutrite appunto di questa tecnica, sicuramente sono da annoverare l'industrial music e l'hip hop soprattutto. Ma negli ultimi anni c'è proprio un discorso di memoria, di recupero di percorsi, suoni e soprattutto di attitudini e, come dire, di sentimenti quasi legati a un'epoca storica e a forze anche che si legano a quel periodo, forze chiaramente psichiche, forse legate a percorsi dell'avanguardia, ma non solo, anche a stramberie varie che andavano quasi fuori appunto anche dall'accademia, dall'avanguardia riconosciuta come tale, per approdare anche in posti abbastanza strani, come personaggi insomma che si davano a una sorta di esotica folle elettronica, oppure spot pubblicitari usciti maldestramente avanguardisti, oppure cose che possono ricordare l'Est Europa, quindi con i rimandi anche al costruttivismo, magari in una chiave un po' pasticciata con il socialismo reale degli anni 60 e 70. Quindi insomma un po' di faccende che si sono smosse, e soprattutto di non più gioco divertente o cattivo, ma comunque sempre appunto come gioco quasi laboratoriale del postmoderno, ma anche come senso di perdita, di mancanza, anche quindi di dolore, in questo senso appunto una memoria, e sarà un po' questo gioco tra citazione postmoderna e appunto memoria, recupero, questa insomma tematica e questo viatico che porteremo avanti. Eh sì, velocissimamente, per non tediarvi troppo con le nostre considerazioni. Stavo tediando, perché parto io, se no allora dopo in due, capito? Con doppio carico rischiamo. Sì, anche perché dovrei dire delle cose legate alla memoria, che però non c'entra sulla musica, ma dato che stasera citazione e memoria c'entra, e lo vedrete anche, perché adesso andiamo proprio a presentare un progetto, un collettivo assolutamente antagonista nella sua costruzione complessiva, e non soltanto troveremo questo, perché poi collegheremo un altro progetto storico dell'Industrial. Ovviamente un gruppo che non ha bisogno di tante presentazioni, uno dei gruppi fondamentali della musica industriale, Cabaret Voltaire, formazione nata a Sheffield nel 1974, e abbiamo pescato dentro il discorso citazioni il disco, che è abbastanza anche difficile da recuperare, questa non è una delle mie solite uscite per dire, non si trova facilmente, è veramente faticoso rintracciarlo. 8 Crepuscular Tracks, un lavoro del 1984 dove i Cabaret Voltaire oltretutto fanno una vera e propria citazione piuttosto chiara anche nel brano, spostata su un terreno industriale verso anche la black music funk, quella legata al theme from Shaft, al famosissimo film Shaft e al tema base di quello straordinario film, e loro lo vanno a riprendere. È uno straordinario Isaac Hayes, autore, che loro vanno a riprendere e ovviamente a ricostruire il brano con un riferimento ovviamente citazionista. Ci andiamo a sentire Theme from Shaft, Cabaret Voltaire. Down in here, you know? It's starring Utah's Mr. Johnson, P. Orange. The purpose of this little creation is not lost, Orange. What can I call you, P? Basically, all it says is a very simple thing, which is that to know a person, you have to meet them. You can't go by setting down information about a person. When the Arts Council annual report was published, the chairman, Lord Gibson, said he deplored the events at the ICA, even if he was paying for them. Still, it was only £900, and P didn't care. He was off for a tour of the States. 500. London Live bringing you now a taste of a concert this weekend at the ICA. Really, I'm there as well. was great. They loved it because it was crazy. They just screamed and yelled with us. ロビン・ウィスのレベルで今、それとミュート、その4つをなんかこう絞って発表かなと思って、じゃあね、最初にまああまりしゃべらないで音楽させろっていうのが多いから、3曲続けて、アーサー・テン・レシオっていうバンドのフライトっていうのと、セカ・ジョイ・ディビジョンのシース・ロストコントロール、それからバウハウスの新しいアルバムのファーストアルバム。 Thank you. Abbiamo voluto iniziare con due attenti che istituzioni, se non si arrabbiassero, e giustamente anche si potrebbero considerare così, della musica nuova, della fine degli anni 70, della nuova, nuovissima musica, più nuova forse della New Wave, che per tanti versi hanno proprio influenzato loro con i primi esperimenti di metà degli anni 70. Cabaret Voltaire e Throbbing Gristle, due nomi poi che si intrecciano tantissimo, non soltanto in termini così di critica musicale, di storia della musica, perché oramai appartengono alla storia, alla memoria, e perché insomma padri fondatori di quello che è stata definita industrial music, ma anche padri fondatori, e qua insomma magari lo trovate un po' meno scritto, lo trovate scritto magari un po' all'atere oppure nelle scritture un po' più dense, più critiche, padri poi di fatto di quel cut-up voluto da William Burroughs, voluto, cercato, sperimentato e anche compiuto in maniera sconvolgente in grandi capolavori del Novecento letterari, tra l'altro appunto proprio questa citazione, quindi il postmoderno che diventa cattivo, antagonista, decostruzionista, insomma non il postmoderno che si accomoda col potere, che va a braccetto con questo un po' a fine della storia e quindi fine anche degli antagonismi e degli scontri. No, con Cabaret Voltaire e Throbbing Gristle il postmoderno un po' in chiave insomma derridiana diventa insomma altra arma contro l'istituzione, ecco, in questo senso si arrabbierebbero sicuramente i rimanenti, purtroppo Throbbing Gristle, perché insomma sono rimasti senza il grande Christofferson, e Cabaret Voltaire che sono rimasti senza Watson, ma perché se n'è andato lui, non a miglior vita come dice qualcuno, sì, ma sta facendo le cose grigie per fatti suoi. Di Cabaret Voltaire non si ha notizie da un po' di tempo, neanche di Kirk dell'altro cabaret, però insomma di fatto insomma rimangono come dire delle pietre miliari di quest'arte postmoderna citazionista, però appunto il citazionismo e il postmodernismo che decostruisce, che va a trovare un senso altro, che è un senso più delle volte antagonista. Burroughs non è non a caso è un riferimento chiaro sia in Cabaret Voltaire che in Throbbing Gristle, proprio in Griff, questo disco è uscito nel 2001 ma con registrazione alla fine degli anni 70, vengono proprio ripresi dei lavori in studio, delle session proprio su vecchi cut-up di William Burroughs, che tra l'altro avrà modo anche di collaborare con Throbbing Gristle e Cabaret Voltaire direttamente, visto che li considera insomma di fatto, quando era in vita, suoi figliocci. E da due grandi insomma, due pietre, anche pietre, non miliare, proprio infatti, pietre anche incendiarie, perché volevano essere anche delle pietre incendiarie da tutti i punti di vista, insomma potremmo aprire veramente minuti e minuti di racconti su tutto quello che ha attraversato il fenomeno Cabaret Voltaire e Throbbing Gristle, soprattutto come percorsi sperimentali aperti, dimensioni veramente nuove sulla scena musicale e non solo, perché andavano anche oltre. Beh, la definizione appunto. No, era interessante collegarsi alle citazioni e alle memorie per ricordare, dato che noi non siamo mai abbastanza diciamo asettici rispetto a quello che ci circonda, e dato che qua abbiamo appena affrontato Cabaret Voltaire e Throbbing Gristle, che erano sicuramente antagonisti nelle forme espressive, è giusto anche ricordare che noi abbiamo memoria, no? Perché lo so che non è sempre bello inserirlo in certi contesti, però insomma ci ha un po' scosso tutto quello, e sicuramente chiunque ascolta anche Radio Città del Capo è stata bombardata da questa serie di arresti che sono partiti la scorsa settimana. Allora, siccome parliamo di memoria e citazioni, non è un caso che il magistrato è sempre quello, è questo Caselli che dagli anni 70 sta arrestando. C'è una buona memoria. Ma anche noi però ce l'abbiamo una buona memoria, perché insomma ce lo ricordiamo da 30 anni e passa che sta arrestando compagni di tutte le generazioni, ecco. Ed è abbastanza inquietante quello che sta accadendo, è giusto insomma dare solidarietà totale a chi è stato arrestato, ma soprattutto per il movimento Notav, lo ricordiamo, 26 arresti circa, adesso non so esattamente il numero, ma circa 26, e la cosa grave appunto è anche comunque sostenere le manifestazioni di solidarietà, le azioni che si stanno svolgendo in tutta Italia a sostegno di questa cosa che è abbastanza grave. Parentesi chiusa. A parte poi la solidarietà, insomma, agli arrestati, alla lotta, insomma, contro e per farli scarcerare, soprattutto continuiamo a fare quel discorso lì Notav, perché è la maniera migliore per solidarizzare con gli arrestati, farli uscire e bloccare, insomma, una delle tante porcherie, perché poi sta diventando, insomma, una battaglia che speriamo che apra un varco grande dalle piccole battaglie, insomma, magari appunto la memoria di Golia, di quell'altro. Questa è veramente una grande memoria, ecco, magari, appunto Davide Golia, appunto, magari, appunto, che si inizi, che sia un varco, come dire, contro il gigante, non la Golia che c'è ancora, no, la quella, Golia, la quella Golia. Memoria, ma quella è una memoria, questa è una memoria, anche trash, se poi dopo anni 70 anche lì ci saranno un po' di memorie su ste robe, beh, qua ci sta, dai, abbiamo lanciato anche un sassolino, vabbè, una Golia, vabbè, velocissimamente perché il tempo è tiranno. Abbiamo voluto comunque dare il nostro sostegno come trasmissione a quello che sta accadendo, alle iniziative di sostegno e solidarietà, e partiamo a presentare il prossimo di lotta. Bravo. E presentiamo il prossimo progetto. Si tratta di Emeralds, progetto che è emerso in terre americane dagli anni zero, un progetto molto interessante, soprattutto nei primi anni. Abbiamo un po' dei rumorista al massimo nei primi anni dei lavori di Emeralds, poi un pochettino si è perso nelle ultime uscite. Questo è il penultimo disco, che è del 2010, esattamente Does It Look Like I'm Here, e abbiamo selezionato due tracce perché c'è una chiara citazione diretta al Frippertronics e ai lavori sia di Robert Fripp che di Brian Eno insieme, e la seconda traccia che è collegata è proprio un chiaro riferimento, con una parte anche utilizzata dagli stessi Emeralds, tratta da Music for Airports di Brian Eno, storico album credo del 1978-79, non sono sicuro, dopo andremo a guardare, sì, comunque forse un po' prima. È una citazione, un collegamento, soprattutto questo elicottero che viene simulato all'interno appunto del brano, che ricorda pienamente il brano a cui si riferisce lo stesso lavoro degli Emeralds. Andiamocelo a sentire, dunque, Does It Look Like I'm Here? Thank you. Thank you. Siamo rientrati in diretta, abbiamo fatto un mix, diciamo la prima parte abbiamo messo veramente dei nomi grossi, non lo facciamo molto spesso, ma stasera sull'argomento citazioni e memoria era più che adatto, insomma, poterci anche sbizzarrire inserendo nomi importanti, insomma, seminali rispetto alla musica sperimentale e d'avanguardia. Parliamo di Brian Eno che abbiamo mixato in maniera un po' ardita, ma che in realtà ha voluto collegarsi anche a quella chitarra un po' malata nel senso buono del termine, usiamo questo eufemismo per essere buoni, malata ma veramente nel vero senso della parola, un po' molto retro, che ricordava queste chitarre tra il prog e il rock devastato nel senso vero della parola degli anni 70, quello che chiudeva il brano degli Emeralds dedicato a Brian Eno. Chiaramente abbiamo inserito subito dopo Brian Eno, mixandolo con Emeralds, da un album splendido uscito per l'etichetta che lui stesso ha fondato e ha curato per anni, la Obscure, a cui ha fatto uscire dei dischi splendidi, ricordiamo quelli di Harold Bald, ma anche tanti altri che sono usciti, lo stesso Gavin Bryars, lo splendido Sinking of a Titanic per la Obscure, etichetta fondata proprio da Brian Eno. E nella stessa etichetta Brian Eno ha costruito il suo album Discrete Music, che è composto di un brano interamente composto da Eno, di mezz'ora, quello di apertura del disco Discrete Music, e poi tre composizioni che sono state trattate, filtrate, incollate con una chiara citazione, ma anche con una certa visione mnemonica rispetto a un grande compositore come Pachelbel, che Eno ha voluto utilizzare, costruendo appunto attraverso un tagli e cuci, attraverso anche una costruzione effettistica sugli archi, una composizione che richiama ma cambia anche nel corso dello sviluppo la dimensione sonora ma anche onirica di questa composizione. Sono tre variazioni appunto dalle composizioni di Pachelbel. Abbiamo ascoltato la prima variazione, che è stata appunto manipolata dal grande Brian Eno, e in chiusura della prima parte andiamo a pescare invece una formazione pochi secondi, poi in realtà riprenderemo tutto nella seconda parte, Broadcast Focus Group. Vi lasciamo così perché non c'è tempo, e dopo il GR ci rivediamo, forse sì, ci rivediamo soprattutto rivediamo. Ciao.